Sti giorni pronti per affrontare una guerra. A quanti anni chiusa da sti cancelli. Scusa bene chi te fa e ti ha tradito. Perché per nascere vita fu vendita. Non campiamo con l'onore a dignità. Il momento brutto messa c'è via. I caffori ci aspetta se imbatti. Ma che io saccio che tu stessa fai con me. Sono cresciuto in mezza via, forse perché se crede a Dio. Sicuro l'indovico non c'è mai passato. Quando la cerca d'aiuto, voce mia non ha sentito. Mamma di agliena mi stringevo tutte e sera. Sono guaglione in mezza via, ma differente da terra mia. Sono giudicato da chi è giusto e chi è sbagliato. La vita mi ha fatto imparare, chi tu leva da darà. Chi nascere per forza porta con manna. E che sta verità. Chiuso da chi quest'anno fratemi. Ma non può preoccupare ci stonghi. Che le mie buste non si può toccare. È stato come sacra libertà. Sono cresciuto in mezza via, forse perché sto credo a Dio. Sicuro l'indomico non c'è mai passato. Quando la cerca d'aiuto, voce mia non l'ha sentuta. Mamma di agnena mi stringeva tutte e sera. Sono guaglione in mezza via, mi difendo a terra mia. Sono giudicato da chi è giusto e chi è sbagliato. Chi doveva da darà. Chi nascereva forse porta con manna. E che sta verità. Differenza terra mia, sono giudicato da chi è giusto e chi è sbagliato. La vita mi ha fatto imparare, chi doveva da darà. Chi nascereva forza porta con manna. E che sta verità. Sono guaglione in mezza via, sono giudicato da chi è giusto e chi è sbagliato. La vita mi ha fatto imparare. Cadito l'ero, t'adarà, e chi nascere, fa forza di un mannato.